Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, oggi parliamo di un pensiero completamente opposto a quello col quale cominciamo la settimana scorsa. Vi ricordate, parlammo di suore e di conventi, oggi invece parliamo di pensiero laico e vi segnalo a questo proposito il libro Biblioteca Laica, il pensiero libero dell'Italia moderna, curato da Michele Ciliberto, che è il presidente dell'Istituto Nazionale degli Studi per il Rinascimento di Firenze, pubblicato da La Terza, 596 pagine, 20 euro. Questo libro è molto interessante perché parla della centralità che nella cultura italiana ha avuto il pensiero laico, ossia quello che esprime, dice il curatore, un'autentica concezione dell'uomo e della società. Questo pensiero, secondo Ciliberto, si estrinseca nella consapevolezza del limite costitutivo e insuperabile della condizione umana, colto e sottolineato con occhio disincantatissimo e con toni spesso affini da pensatori di prima grandezza quali Alberti, Machiavelli, Sarpi o lo stesso Leopardi. In questa cultura, insiste Ciliberto, c'è anche l'insistenza sul limite dell'uomo, sul buio nel quale egli è sommerso e dal quale non può uscire. Una cultura che, nonostante questo, però non si risolve mai in un atteggiamento rassegnato, passivo o inerte. Anzi, scrive Ciliberto, la cultura laica fin dall'inizio individua nell'agire il carattere proprio dell'uomo, compreso il sogno, l'illusione, l'utopia. Perciò questa cultura si batte con forza e intransigenza sulla libertas philosophandi. Di questa cultura abbiamo qui una ricca antologia che parte dagli albori del Rinascimento e si arresta al 1861. Con l'unificazione del paese, infatti, tutto cambia, secondo il curatore, anche il problema della laicità. E infatti l'ultimo scritto dell'antologia è proprio quello famosissimo di Cavour con la celebre formula della libera chiesa in libero stato. Il libro è preceduto da un'ampia introduzione dello stesso Ciliberto che illustra le ragioni dei titoli degli 8 capitoli e le riflessioni dei vari autori, tra i quali troviamo nomi noti da Cavour a Cattaneo a Leopardi e prima ancora Machiavelli, Bruno e Guicciardini, ad altri che magari per il pubblico più largo sono meno famosi, ma che sono tutti importanti perché secondo Ciliberto hanno collocato all'avanguardia l'Italia nella storia civile dell'Europa moderna. Ma sentiamo il curatore. Buongiorno a Michele Ciliberto. Buongiorno. Michele Ciliberto, uno dei capitoli del suo libro è intitolato alla Libertas Philosophandi, che secondo lei è una delle caratteristiche essenziali della laicità. Ecco, in che cosa consiste questo nesso tra la laicità e la libertà di filosofeggiare? Perché io intendo per laicità essenzialmente un atteggiamento di carattere critico, ostile a ogni forma di pregiudizi o di posizione assunta in modo acritico. Da questo punto di vista la libertas philosophandi coincide con la è il fondamento della criticità e in questo senso si connette al tema della laicità che si misura insomma con la sostanza delle cose ma con un atteggiamento mentale totalmente libero e impregiudicato. Penso per esempio a Giordano Bruno, alla epistola che lui scrive come introduzione agli Adversus Mathematicos dedicata appunto a Rodolfo II d'Asburgo, in cui dice appunto che il compito dei filosofi è soprattutto quello di svolgere una riflessione di carattere critico, essendo, lui dice, i filosofi gli occhi della comunità che devono guardare in modo libero al sole e via discorrendo. Ma questo è un grande tema anche di Campanella, è un grande tema anche di Galileo, cioè la modernità nei suoi punti migliori e più alti coincide con questo atteggiamento critico. Ecco, lei fa a un certo punto un'osservazione quasi all'inizio molto attuale, cioè nota come la religione, nonostante quello che ci si sarebbe potuto aspettare, non si sta affatto affievolendo il richiamo della religione, anzi il recupero della religiosità va di pari passo col recupero degli stati nazionali. Credo che le cose siano precisamente in questi termini, cioè per lungo tempo, per esempio il pensiero socialista, quello di tipo anche di matrice comunista, ha pensato appunto che la religione fosse riducibile a doppio dei popoli e che una volta che si fossero avviati i processi di liberazione degli uomini sarebbe sparita anche la religione. Le cose non stanno in questo modo, nel senso che la religione attiene ad alcune strutture fondamentali dell'uomo, del vivere dell'uomo, a come dire, qualcosa di più e di diverso anche da una pura dimensione secolare o da una pura riduzione in termini di potere. Devo dire che si individua nella dinamica delle religioni, e per quanto riguarda noi italiani il cattolicesimo, uno svolgimento delle posizioni, perché al tempo del concilio, che è stata una data essenziale dal punto di vista della storia della Chiesa e quindi in generale dell'umanità. La fede è individuata soprattutto come un'esperienza personale, intima, come qualcosa che attiene, diciamo, al sacrario della coscienza dell'uomo, con un grande processo di liberazione rispetto a tutti gli elementi di carattere costantiniano che avevano, per esempio, caratterizzato la Chiesa di Pio XII, per fare un riferimento. Negli ultimi decenni, non soltanto per quanto riguarda il cattolicesimo, per quanto riguarda l'Islam, per esempio, la religione invece ha riassunto una potentissima proiezione di carattere mondana, di carattere politica, è venuta svolgendo, basta pensare all'esperienza italiana, all'esperienza di Wojtyła, all'esperienza di Ruini, lo dico in modo descrittivo, ha assunto una forte dimensione di intervento anche nella dimensione sociale, nella dimensione politica, quindi rispetto a quello che si pensava non soltanto non abbiamo avuto un venir meno della religione, ma negli ultimi tempi un forte rafforzamento e potenziamento delle religioni in generale che come strumento anche di agire politico, di agire sociale. Non so quanto questo faccia bene alle religioni, però mi pare che questo sia accaduto. Ecco, un altro aspetto sul quale lei insiste è la differenza forte tra laicità e anticlericalismo. Per me questo è un punto fondamentale, cioè io credo che sia sbagliato identificare in modo riduttivo la laicità con l'anticlericalismo. La laicità è qualcosa di molto più vasto e profondo, diciamo, di un atteggiamento di carattere anticlericale. L'anticlericalismo è tipico piuttosto della società italiana, della cultura italiana, perché in Italia noi abbiamo avuto una potentissima monarchia pontificia, come si diceva appunto nel Rinascimento, e quindi c'è stata una polemica nei confronti della religione cattolica, della Chiesa cattolica di carattere fortemente anticlericale, in polemica nei confronti di queste diramazioni di carattere politico, sociale, della presenza della Chiesa anche dal punto di vista della costruzione delle singole personalità attraverso il sistema della confessione. Ma la laicità non è anticlericalismo, sarebbe un'immagine del tutto riduttiva. L'atteggiamento laico come atteggiamento civile, mondano, critico, come rifiuto del dogmatismo, rifiuto del pregiudizio, è una concezione generale, un modo di vedere le cose, di rapportarsi con la realtà e che fa sentire, diciamo, la punta della sua critica non soltanto nei confronti della Chiesa cattolica, ma nei confronti di qualsiasi organismo collettivo, anche partiti moderni, quando si configurano come strutture di dominio. La laicità non è riducibile all'anticlericalismo. Nel capitolo sulla condizione umana c'è uno dei saggi più divertenti e suggestivi, è uno scritto di Paolo Sarpi, il grande storico del Concilio di Trento, monaco che morì scomunicato, che intitola il suo scritto «Abbi il gatto per esemplare». Che cosa ci può insegnare il gatto? Il gatto è sostanzialmente, Sarti vuol dire questo, di avere un atteggiamento di distacco anche nei confronti della realtà, di non farsi interamente coinvolgere nella dimensione delle passioni, dell'emozione, di avere un controllo critico appunto sulla realtà e anche su se stessi. Sarti ripiglia anche tutti i motivi della doppia morale di carattere senechiana e insiste nel dire che per quanto se si voglia fare opera teatrale, rappresentazione teatrale, ognuno è già sufficiente per se stesso e non è necessario crearsi un pubblico più vasto di sé. Sarpi a me pare un personaggio veramente straordinario, eccezionale, anche se in una storia come quella italiana personaggi come lui sono stati fortemente minoritari. È straordinario anche sia per la rivendicazione, diciamo, rispetto al potere religioso, del potere dello Stato, e ci sono dei testi straordinari, dei consulti straordinari, ma anche per la concezione che lui ha della religione, che è, diciamo, opposta a quella che ha Machiavelli, per capirsi, no? Machiavelli pensa che la religione sia anche, come dire, una dimensione del vivere civile dell'uomo, che la religione debba svolgere una funzione civile, è una linea che arriva poi fino a Mazzini, è, diciamo, quello che io chiamo il paradigma machiavelliano, cioè gli uomini per vivere hanno bisogno di un vincolo che li tiene insieme, questo vincolo è la religione. Il problema è di vedere se si tratta di una buona o cattiva religione, respingere le cattive religioni, ma la religione ha questa funzione di vincolo civile che tiene insieme gli individui e fa di essi una comunità. Bene, grazie a Michele Ciliberto, curatore di Biblioteca Laica e autore di Italia Laica. Buona domenica. Grazie a lei. Grazie professore, grazie mille. Uno dei filoni laici per eccellenza è quello dell'illuminismo, di cui troviamo una suggestiva e insolita presentazione in un libro dedicato all'avventura editoriale più coraggiosa, discussa e rivoluzionaria mai condotta fino ad allora, cioè la pubblicazione dell'Enciclopédie. Un grande storico americano dedica un volume molto appassionato a questa iniziativa, l'autore è Robert Denton e il titolo è Il grande affare dei lumi, storia editoriale dell'Enciclopédie 1775-1800, è pubblicato da Adelphi, 750 pagine, 55 euro ed è tradotto da Antonio Serra. Quella dell'enciclopedia fu una magnifica impresa editoriale che movimentò un'enorme quantità di denari. Naturalmente allora ogni singola iniziativa economica, in particolare ogni edizione, era sottoposta a un rigido processo di autorizzazioni che a seconda dei periodi furono concessi o meno all'enciclopedia e quindi cominciamo a scoprire i maneggi che dovettero fare gli editori per ottenere questi permessi. È un libro affascinante dunque questo, che parla di un'impresa economica che ha cambiato la storia del pensiero e che non tralascia naturalmente di mettere in luce tutti i caratteri, il valore e il significato dell'illuminismo e dell'enciclopedia, entrambi basati sull'assunto, e qui veniamo a quanto abbiamo detto poco fa con Ciliberto, della laicità. E sottolinea infatti l'autore come secondo questi autori la conoscenza si raggiunge attraverso i sensi e non grazie a Roma o alla rivelazione. Il grande agente ordinatore era la ragione. E proprio questa convinzione rese eretica l'Enciclopédie, oltre che un buon affare per chi la editò. Un affare in tutti i sensi. Scrive infatti lo storico che con l'Enciclopédie l'illuminismo si materializzò, passando dalla fase della speculazione astratta degli autori e degli imprenditori a quella dell'acquisizione concreta da parte di un vasto pubblico di lettori interessati. Ed è interessante anche avere i dati sulla diffusione di quest'opera, dati curiosi, ad esempio l'enciclopedia era più diffusa in piccoli centri come Besançon, che aveva appena 28.000 abitanti, ma dove erano stati acquistati 338 edizioni dell'enciclopedia, piuttosto che Lilla, che invece era un grande centro industriale in espansione con 61.000 abitanti, dove si vendettero soltanto 28 copie, a riprova del fatto che l'enciclopedia non fu un'opera letta e scritta soprattutto per la nuova borghesia emergente. Anzi, scrive l'autore, gli industriali mercanti non erano interessati alla letteratura e quindi si verificò un paradosso, che i lettori di quest'opera appartenevano a quei settori della società che sarebbero crollati per primi nel 1789. Insomma, lessero l'enciclopedia, ma ebbero poi tagliata la testa. Ben ritrovati con Salvatore Carruba, parliamo adesso di donne, anzi delle donne, perché questo è il titolo del libro di Franca Valeri, Le donne, pubblicato da Einaudi, 148 pagine, 17,50 euro. Inutile presentare l'autrice, grandissima attrice, scrittrice, ma soprattutto interprete insuperabile di molti tic e vizietti italiani, dall'altolocata borghese milanese alla popolana romana. E Franca Valeri ci dà qui una serie di ritratti di donne colte attraverso lettere, telefonate, biglietti frettolosi, ma anche adesso SMS e mail. Per esempio questa che adesso vi propongo, che mette alla berlina l'abitudine di troppi genitori di giustificare sempre e comunque i propri figli. Da ifagioli@xy.it a direzione scuole riunite @xy.it. Esimio direttore, scelgo la mail per essere più rapida. Considerando la irragionevole decisione di allontanare mia figlia, l'alunna Fagioli Elisabetta, dal vostro istituto, segnalo le nostre ragioni di dissenso prima di un ricorso al TAR o altro mezzo legale. Nostra figlia è in terapia psicosomatica dai primi anni di vita, in corretta analisi con una nota psichiatra minorile, sotto controllo dietologico per prevenzione obesità ereditaria, in lista d'attesa presso una scuola di danza classica e teatro dell'opera per addolcimento dell'uso degli arti. Non riteniamo quindi plausibile considerarla elemento pericoloso, bensì esemplare. È piuttosto in considerazione dubbia la reputazione del vostro istituto dopo recenti avvenimenti incendiari. Famiglia Fagioli, presso Studio Legale Farinelli. Dal libro esce dunque un campionario inesauribile e irresistibile che fa della Valeri una sociologa col dono della scrittura e dell'umorismo. Le sue Lilli, Prezzemolina, Mariuccia, Poponi, Strazzi, Dondina ci fanno capire l'Italia meglio di tanti trattati. Un'altra attrice che sa tenere la penna in mano molto bene, che ha lavorato molto con Franca Valeri, è Patrizia Zappa Mulas, di cui Et al Edizioni ripropone L'Orgogliosa, 106 pagine, 12 euro. Questo è un racconto ispirato alla vicenda giudiziaria di Adriano Sofri, come spiega la stessa autrice. Qui non troveremo Sofri. L'autrice infatti era rimasta molto colpita dal fatto che la cronaca giudiziaria potesse riproporre in modo così clamoroso e lancinante il tema della credibilità. Vi ricorderete le vicende giudiziarie di Adriano Sofri, i processi che furono oggetto di grandi discussioni, di grandi polemiche, e allora questo sollevò appunto il problema al quale vuole rispondere questo libro. Che cosa rende credibile un imputato e non un altro? Ma la risposta è cercata attraverso l'elaborazione di una piccola storia, quasi un micro giallo, ambientato in una grande scuola elementare degli anni fra i 50 e i 60 del Novecento, coinvolta in uno scandalo che riproporrà proprio il tema dell'inchiesta e dell'ingiustizia. Sentite qui per esempio l'esemplificazione dei travagli dei quali un inquirente finisce col piombare. Questo è l'avvio dell'indagine condotta dall'autrice narratrice, che allora era una bambina di 7 anni. «Perché mi trattate così?» Riuscii a balbettare dopo una lunga pausa di confusione e quella fu l'unica uscita felice di tutta la mattina. La direttrice sembrò ricordarsi che avevo 7 anni e che i bambini sono ingranaggi oscuri, sì, ma anche delicati. Forse l'idea di un equivoco assurdo le guizzò un istante nella mente irritata. La domanda le parve ragionevole e decise di tentare un'altra strada. In quel modo si preparava a scoprire l'unica carta buona che aveva in mano, quella su cui si reggeva l'accusa e che sarebbe stata la leva migliore per aprirmi al pentimento. Finché un imputato non si riconosce colpevole, anche se nel proprio intimo il giudice ha già preso posizione contro la sua innocenza grazie a impressioni di pelle maturate chissà come o alla torbida evidenza di una delazione, un ultimo dubbio insinuato nella rete dei suoi argomenti o anche solo l'astratto sospetto di sbagliare possono costringerlo a tenere tormentosamente in sospeso la sua sentenza. La direttrice dovette provare il vuoto d'aria che ci afferra nel pericolo quando dubitiamo all'improvviso di riuscire a valutarlo, perché mi guardava più attentamente di prima, con un interrogativo imperioso nello sguardo. Una donna straordinaria, capace di commuovere milioni di giapponesi e non solo, è un'ultracentenaria, Shibata Toyo, classe 1911, poetessa giapponese di cui Mondadori pubblica Se sei triste guarda il cielo, tradotto da Andrea Maurizio, 80 pagine, 9,90 euro. Questa è la prima raccolta di poesie dell'autrice, che cominciò a scrivere a 92 anni. Infatti questi versi sono stati composti tra il 2003 e il 2010. L'età evidentemente non ha domato l'autrice, come dimostrano questi versi che vi propongo. Energia vitale. Adesso che ho superato i 90 anni, ogni giorno mi è quanto mai caro. Il vento che accarezza le guance, le telefonate degli amici, le persone che vengono a trovarmi. Tutto ciò mi infonde un'energia vitale. Un altro genere di donne, un'altra cultura, incontriamo nel libro di Francesca Cafferri, che è una giornalista di Repubblica, Il paradiso ai piedi delle donne. Questo libro nasce da una serie di viaggi e di incontri che hanno consentito a Cafferri di descrivere l'avanguardia di un movimento che con molta fatica ma con successo, sto citando dal suo libro, sta cambiando la faccia del mondo musulmano e che ancora di più lo farà nel futuro. L'autrice al riguardo è molto ottimista, scrive che l'onda al femminile che si sta alzando non verrà respinta a lungo, anche perché ha alle sue spalle radici solide e diffuse. Sottolinea la forza del movimento femminista islamico che in questi anni si è consolidato. Insomma, siamo di fronte a un fenomeno, dice l'autrice, sommerso, che non trova spazio nei media, il che naturalmente non facilita l'impegno di queste donne, ma che sta maturando le condizioni per un cambiamento. E il viaggio della Caferi si svolge in alcuni paesi clou: l'Egitto, lo Yemen, l'Arabia Saudita, l'Afghanistan, il Pakistan e il Marocco, nei quali appunto ella svolge la sua inchiesta. Speriamo naturalmente che le sue conclusioni possano realizzarsi nei prossimi mesi. Ci avviciniamo al periodo delle Olimpiadi e quindi vi segnalo il libro Storie di sport e storie di donne di Giovanni Malagò, imprenditore e protagonista del mondo sportivo italiano, scritto con Nicoletta Melone e pubblicato da Rizzoli, 322 pagine, 19 euro. Questa è una galleria di 17 ritratti su grandi campionesse, scrive Malagò, molto diverse tra di loro ma incredibilmente vicine nella grandiosità del saper vivere e affrontare lo specifico della disciplina scelta, con un solo elemento in comune tra loro: l'essere italiane. Naturalmente troviamo qui tante discipline oltre che tantissime campionesse e una buona azione finale. I diritti del libro, infatti, annuncia l'autore, andranno a favore della disabilità dello sport femminile. E a questo punto il confettino. Concludiamo con due donne, con due ragazze, con due sorelle particolari che troviamo nel libro Sorelle Vampiro, un'amica da mordere di Franziska Ghem, è pubblicata da Castoro, tradotto da Alessandra Valtieri, 176 pagine, 13,50 euro, romanzo già per ragazzini o ragazzine, con la storia di due sorelle mezze vampire che dalla Transilvania scopriranno i piaceri e le difficoltà di vivere in una città popolata di umani. E con questo ringrazio Luca Cremonese in redazione e Matteo Comes in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, unlibro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete ascoltare sempre questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona domenica e vi do appuntamento la settimana prossima.